Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. In questa trasmissione, come sapete, ci occupiamo spesso di tecnologie energetiche e abbiamo raccontato nel tempo tante tecnologie alternative per produrre il calore con il quale a casa nostra ci riscaldiamo. Questa sera allora tentiamo un esercizio un po' diverso, ma senza abbandonare questo tema. Cercheremo di capire quali tra le tante tecnologie alternative potrebbero affermarsi prima, quali dopo e che cosa cambia. Lo facciamo con l'aiuto di Walter Bornscheuer, che è il capo della ricerca e sviluppo di Viessmann, che è una multinazionale che molti conoscono e attiva nel settore dell'energia, che lavora un po' su tutte le tecnologie a 360 gradi. Ecco, allora Bornscheuer, le chiedo come vede in prospettiva il processo di diffusione di queste tecnologie, che sono appunto anche molto molto diverse le une dalle altre. What we see talking about gas combustion, that's what current today. Per quanto concerne il riscaldamento, oggi le caldaie a condensazione sono da considerarsi lo standard. Se invece guardiamo al futuro, le due direzioni principali in cui si sta lavorando sono l'aumento dell'efficienza dei sistemi di riscaldamento con l'introduzione delle pompe di calore e l'utilizzo dei sistemi di microcogenerazione. Cioè quei sistemi con cui in casa ci si produce da sé l'energia elettrica e si usa il calore di scarto per il riscaldamento. Penso però che le prime a diffondersi ampiamente saranno le pompe di calore. Poi verrà la cogenerazione. In un certo senso, nel settore del riscaldamento, sta accadendo la stessa cosa che è successa nel mondo dell'automobile, dove prima ogni casa produceva 3 o 4 modelli e ora ne produce 20. And if you now look on the roads, they have 20 models. Senta, ma perché pensa che saranno le pompe di calore e quindi l'approccio alta efficienza a diffondersi per primo e non invece la cogenerazione? The change for the customer is less than for the installer, but also for the end user is less. Il cambiamento per l'utente finale e anche per l'installatore è molto minore con le pompe di calore. In pratica non cambia nulla. Si continua a produrre acqua calda per il riscaldamento, solo che lo si fa con un'efficienza maggiore. Se invece l'utente si sposta sulla cogenerazione, ecco che le cose diventano più complicate. Bisogna avere a che fare con la rete e con il distributore di energia elettrica. Inoltre diventa importante consumare l'energia al momento giusto. Tutto questo comporta dei cambiamenti nelle abitudini sia dell'utente che dell'installatore. Perciò credo che per primi si affermeranno i sistemi ad alta efficienza. Ma sarà molto importante anche il rapporto tra il costo dell'energia elettrica e del gas. In Germania, per esempio, l'energia elettrica costa 5 volte il gas, come anche in Repubblica Ceca e Slovacchia. Mentre in Italia, dove le famiglie pagano l'energia meno che in Germania, questo rapporto vale circa 3. Perciò è probabile che i tedeschi saranno più motivati degli italiani nell'adottare la cogenerazione. In ogni caso, sono convinto che la motivazione principale per cui uno decide di prodursi l'energia elettrica a casa sia il desiderio di staccarsi dalla rete, una specie di desiderio di autarchia energetica, oppure il desiderio di avere l'energia elettrica anche in caso di blackout o cose simili. So even if the public net is down. Dunque, voi di Viessmann, ma in realtà anche molti altri, state lavorando anche su un altro sistema di cogenerazione o di produzione elettrica, le cosiddette celle a combustibile, che sono considerate una delle tecnologie più importanti per il futuro. Allora, intanto ci ricordi che cosa sono? Yeah, fuel cell is an electrochemical way to produce power. Una fuel cell è un sistema elettrico-chimico, quindi produce energia in modo simile a come fanno le normali batterie elettriche. Rispetto a tutti gli altri sistemi che usano un motore, le celle a combustibile hanno un'efficienza molto più alta. È una questione fisica. I limiti di efficienza che valgono per tutti i sistemi termodinamici alla base dei vari tipi di motore non valgono per le reazioni elettrochimiche che avvengono nelle celle a combustibile. Da una parte l'efficienza massima è del 30-40%, dall'altra si arriva tranquillamente al 60%. Parlo di celle a combustibile a ossidi solidi, che funzionano bene anche col normale gas naturale. digitale. Al momento queste celle così efficienti non sono ancora del tutto affidabili, ma ci dicono qual è il benchmark, l'obiettivo a cui puntare. Attualmente in Viessmann abbiamo sviluppato delle celle a ossidi solidi che superano il 50%. Considerate che è già più di quanto possa fare la miglior centrale termoelettrica. Inoltre, questi sistemi sono del tutto silenziosi e questo è un altro aspetto molto importante quando si tratta di entrare con degli apparati nelle case della gente. In Giappone ci sono già 20.000 di queste celle a combustibile installate, questo è un dato che tra l'altro mi ha rivelato proprio lei. Ovviamente non è un numero che faccia la differenza sui consumi del Giappone, ma comunque è molto elevato rispetto al resto del mondo. Come mai? In Japan, most advanced R&D topics are launched. In Giappone molti programmi di ricerca sono fortemente supportati dal governo. In questo caso parliamo di un programma lanciato nel 2002 per sostenere la ricerca su queste tecnologie, che in Giappone sono sviluppate da almeno 4 grandi aziende. Considerate che solo Panasonic ha speso 500 milioni di euro per fare ricerca su questi sistemi e ha 300 persone che ci lavorano sopra. Bene, quando il governo giapponese ha lanciato un programma a sostegno della ricerca sulle celle a combustibile, a cui hanno aderito anche le compagnie che distribuiscono il gas, ha anche previsto un incentivo per chi le installa. Su circa 25.000 euro di costo di uno di questi sistemi, la metà viene rimborsato dallo Stato e dalle utilities. Considerate però che in Giappone non sono possibili altre forme di sussidio, come le tariffe feed-in che abbiamo adottato in Europa per sostenere le rinnovabili. No feed-in tariff. No? Okay. They are not allowed to feed in. Thank you, Mr. Bonshoyer. Yeah. Not for that. Bene, io ringrazio Walter Bonshoyer per essere stato qui con me stasera. Vi do appuntamento a lunedì.